محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Allah vanificherà le opere dei miscredenti e di quelli che distolgono dalla sua via. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Rimetterà i peccati e volgerà al bene lo spirito di coloro che credono e compiono il bene, e credono in quel che è stato rivelato a Muhammad. Questa è la verità che proviene dal loro Signore. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Perché i miscredenti seguono il falso, mentre i credenti seguono la verità proveniente dal loro Signore. Così Allah propone il loro esempio agli uomini. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Quando in combattimento incontrate i miscredenti, colpiteli al collo finché non li abbiate soggiogati, poi legateli strettamente. In seguito, liberateli graziosamente o in cambio di un riscatto, finché la guerra non abbia fine. Questo è l'ordine di Allah. Se Allah avesse voluto, li avrebbe sconfitti, ma ha voluto mettervi alla prova gli uni contro gli altri. E farà sì che non vadano perdute le opere di coloro che saranno stati uccisi sulla via di Allah. سيهديهم ويصلح بالهم. Li guiderà, migliorerà la loro condizione. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. E li introdurrà nel paradiso di cui li ha resi edotti. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. O credenti, se farete trionfare la causa di Allah, egli vi soccorrerà e renderà saldi i vostri passi. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. Mentre coloro che non credono saranno perduti